tu la pietra, la pietra, la pietra, tu nel fiore, nel fiore, tu respiro, respiro, respiro, tu sospiro, sospiro, tu memoria, memoria, tu la storia, la storia, tu salita, salita, tu fatica, tu il grado, tu sudario, sudario, tu la notte, la notte.